24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. Cioè, l'ha capita? Farò un master in bersanese. Tacchini, buongiorno, cari ascoltatori, siamo qua, siamo pronti anche oggi a stare con voi fino alle 9 per 24 mattino. Saluto subito Peter Bescapè, il nostro alpino lì in regia, e ringrazio anche oggi Filippo Aureggi, l'altro tecnico che ci sta aiutando. E che dire, oggi più che mai in questa settimana in cui volano accuse di essere dei bugiardi, accuse di essere dei cialtroni, accuse di essere dei buffoni. Il consiglio è il solito. But please relax. Come sempre, che poi si va a votare. E allora voglio aprire il nostro bar condicio con la nostra bella Nicole Minetti, che offre il caffè volentieri a tutti quanti. Come sempre il caffè volentieri a tutti quanti, Nicole Minetti ce lo offre, e lo offre oggi anche a Alessandro Giglioli dell'Espresso e il suo Piovono Rane. Buongiorno e ben ritrovato Alessandro, eccoci qua. Non c'è, è caduta, è proprio il peggio del peggio iniziale. Buongiorno, tromp, caduta la linea. Alberto Forchielli, buongiorno. Salve, buongiorno. È il presidente dell'Osservatorio Asia, che si trova in Asia ovviamente. No, sono a Monaco di Baviera, sono il capodanno cinese. Cos'è sabato che ritorno? No, adesso ce la deve spiegare. Intanto Giglioli l'abbiamo recuperato. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, ecco, buongiorno. La seconda è buona. No, cos'è? Aspetta, Forchielli, ci spieghi. Cos'è il capodanno cinese? No, il capodanno cinese è finito domenica, per cui una settimana dopo non fa niente nessuno. Per cui quando c'è il capodanno cinese, tutti via. Torno in Europa, vado negli Stati Uniti. Quando finisce sono sobri e torno su. Quindi sabato vado a Shanghai. Ah, ecco, perfetto. Quindi adesso hanno finito i festeggiamenti del capodanno cinese. Per cui no, adesso devo smaltire, questa settimana devo smaltire i festeggiamenti. Ah, ecco. In che anno siamo, giusto per capire come butta per le elezioni italiane? No, anno del serpente, che è un anno sfigatissimo per le borse. Oh, è l'anno delle torri gemelle, ah. È l'anno di Pearl Harbor, è l'anno della crisi del 29, quindi veramente bisogna toccare. Ma altre buone notizie, no? No, Giglioli, iniziamo così. Siamo nell'anno della sfiga, questo per i cinesi. Anno della sfiga. Anno della sfiga, molto bene. Tra 5 giorni si vota, No, giusto per chiarire. Giglioli, siamo nell'anno del serpente, tu credi ai cinesi? No, giusto. No, io in generale tendo a non credere a nessuna forma di superstizione o di credenza, però devo dire che, viste le performance degli economisti, possiamo tranquillamente affidarci anche al calendario cinese. Ah, ecco. No, perché anche a Pearl Harbor non credevano che fosse l'anno del serpente, e poi dopo è arrivato Pearl Harbor. Forchielli, eravamo rimasti un'ultima cosa, perché va a votare poi o no? Perché dunque, no, non ci vado, perché non ci va. Io devo votare il 21, che sarebbe perché i seggi chiudono prima. Sì. E io non ce la faccio. Perché ha la residenza all'estero, Forchielli. Io sono residente a Hong Kong, sì. A Hong Kong. Ho già un lungo scambio di email con il consolato, che ho mandato anche a lei, fra l'altro. Sì, è vero. Però io non posso votare il 24, devo votare entro il 21 e non ce la faccio. Non ce la fa. Appuntamenti qui in Germania. Ah, mannaggia. Mi scuso con tutti. No, ma non si deve scusare. Sono criticato perché non ho il diritto di parlare perché non voto. No. Ho colto questo punto, mi sono messo come una bestia a parlare col consolato, ma non c'è niente da fare. No, perché doveva spiegare a Giglioli l'ultima volta, Forchielli ha detto no, ma io non vado a votare. Poi c'è chi l'ha criticato, ma allora cosa critica l'Italia se non va a votare? Poi ha cercato di spostare tutti gli aerei, ma non ce la fa. Possiamo twittarlo in diretta, Forchielli? Facciamo questo esperimento, Forchielli a 24 mattino, non voterò, va bene? La mettiamo così. Non voterò, ecco, è partito il tweet, adesso poi Giglioli, che è collegato in Piovono Rane, ci dice se è arrivato. Allora, Giglioli, mancano 5 giorni e adesso sono gran dispute sulla questione del dibattito TV. Ti appassiona questa cosa del dibattito TV, ci sarà o no? tutto fuori che parlare di politica. Cioè, beh, certo, ma quello... L'importante è quello, l'importante è che non parliamo delle cose da fare. No? Sei matto anche te. Sei matto, no? Parlare di politica prima delle elezioni è una cosa senza senso. No, non mi appassiona per niente, anche perché il dibattito non ci sarà, questo ormai l'hanno capito anche le galline, perché uno lo vuole a 3, uno lo vuole a 6, uno lo vuole a 1, uno non lo vuole proprio. Quindi il dibattito non ci sarà. È un ennesimo segno della scarsa qualità della campagna elettorale del ceto politico italiano, perché in un paese decente si fa il dibattito fra tutti i candidati premier, se ne fanno 2, se ne fanno 3, se ne fanno 5, ma insomma in qualche modo si dà. Detto questo, è interessante il fatto appunto che in questa orribile, penosa campagna elettorale con la chicca finale dello scazzo Zingales-Giannino, in questa penosa campagna elettorale siamo arrivati a non parlare mai di politica. L'unica cosa di cui si è parlato vagamente è stata l'IMU, per il resto parliamo di media, Ma però c'è anche questa cosa, anche ieri Mario Dinolfi, qui ai nostri microfoni, è la sua teoria, vorrei capire anche da Forchielli, ha detto ma no, agli italiani, è triste constatazione, non gliene frega niente di votare sui programmi, votano le facce, purtroppo le facce, da 20 anni si fanno i referendum. Ma è un circolo vizioso. Io presento facce e gli italiani votano le facce. Se avessimo sentito quando l'hanno fatto il dibattito sulle primarie, alle quali, detto per inciso, io non ho votato, quelle primarie del centro-sinistra, un po' si è parlato di politica, poi magari qualcuno ha persino votato per delle idee che piacciono o non ci piacciono, le idee di Tabacci, di Renzi, della Puppato, di Bersani, di Vendola. Dove essere un esperimento educare i cittadini a parlare di politica anziché parlare del curriculum di Giannino o delle non lo so, tutto quello che abbiamo visto, insomma, quanto è fenomeno da paraccone quell'altro, forse sarebbe meglio. Forchielli, come funziona? Beh, in Cina non si fanno dibattiti, lì proprio No, si fanno, ma tutti i segreti. Poi dopo ci sono proprio Sì, si scannano. Ma anche qui, anche qui. Anche qui, dice. Però non apertamente. No. Ma avrebbe voluto, Forchielli, un bel dibattito, che ne so, su cosa si prevede, per esempio, per l'internazionalizzazione, per aiutare le imprese nell'export, per i temi che segue lei. Avrebbe voluto vedere un bel dibattito su queste cose, oppure chi se ne frega? No, ma sono 40 anni, io non ci credo più a quelle cose di sistema, capito? Cioè, il mio motto è oltre l'Italia per onorarla, non è quelle buffonate di sistema. Tanto, guardi, tra le pensioni, gli stipendi pubblici e gli interessi sul debito non c'è una lira nel bilancio, è inutile, la politica è obbligata, sono tutte palle, capito? E cioè, non esiste discrezionalità, il paese è schiacciato dalla finanza, che programmi vuoi che dica? Ho capito, allora cioè, l'unica vera cosa interessante che mi ha fatto diventare stronzo è quella polemica tra Zingales e Giannino. Ecco. È impossibile adesso Zingales non sapesse che Giannino non aveva studiato Buff. A questo proposito, la polemica... Questa è una cagata, quella è una roba... Giannino sarà quello che sarà, ma quell'altro... Ragazzi, no, che vuol dire? Allora, la questione, chiariamola. Adesso parlo io. Sì. Io ho studiato a Harvard. Sì. Quando incontro uno di Harvard, ci si parla, ci si dice dove hai studiato, che professori, in che dormitorio stavi, dove andavi a mangiare. Cazzo, uno è professore a Booth, quell'altro dice dove hai studiato a Booth, ha fondato insieme un partito e 3 giorni prima se ne accorge. Cos'è che c'è sotto, secondo lei? Cos'è che c'è ma sotto? Ma non lo so, capito? O quella ha capito che non sbatte da nessuna parte per cui va a prendere le distanze, o qualcuno gli ha fatto le offerte migliori, ma non mi stare a dire, capito? Non vieni fuori 3 giorni prima. Allora, chiariamo qual è il nesso. Cos'è che va? Cos'è Forchielli? No, non posso tradurre. No, io l'ho sentita in sottofondo, ma vorrei che ce la ridicesse per gli ascoltatori. Ma non si può, cazzo, mi fa causa il Vaticano, non si può. Ma figurarsi, adesso c'è pure un cardinale che forse ha coperto gli abusi pedofili che andrà in conclave. Quindi... Ma va a far dal pugnato. Come si dice Bologna? No, allora, la questione è questa, per riassumere per gli ascoltatori, che ieri c'è stata una diatriba e oggi figurarsi Giglioli, io qua il giornale Libero, indovina quali sono i 2 giornali che cavalcano in prima pagina questa vicenda, il giornale non è Libero. il giornale è libero, il giornale titolo l'Oscar delle balle, è libero, libero titola il declino di Giannino, cioè l'accusa, dice Zingales, cofondatore di Fare per fermare il declino, quattro giorni prima delle elezioni, cinque giorni prima, me ne vado perché ha mentito su un master alla Chicago Booth, dove insegna appunto Zingales. Tra l'altro sentiamo ieri Oscar Giannino, era da Mirta Merlino all'Aria che tira, e chiamato da Monti professore, sentite Giannino. Siccome mi ha chiamato professore Mario Monti, che sì, è stato rettore universitario, no, io ci terrei a chiarire, perché siccome qua bisogna avere paura di tutto, e allora io ho dei fondatori professori molto autorevoli in grandissime università del mondo e così via, fammi chiarire l'equivoco, perché non vorrei che altrimenti, quindi io non ho titoli per essere chiamato professore e quindi non ci tengo a essere chiamato professore, sono un giornalista esperto di economia che ha studiato legge economia per i fatti suoi, non voglio essere chiamato professore perché altrimenti i professori veri ho scoperto che si arrabbiano infinitamente e hanno ragione. Questo è successo al mattino, Alessandro Giglioli, poi nel pomeriggio insomma la cosa è montata su, che cosa ci vedi tu dietro questa vicenda? Al di là sappiamo che tu... È l'anno dei serpenti di Giannino. È il giorno dei serpenti. No, io ci vedo soltanto che vorrei spezzare una lancia per Zingales, le cui idee non condivido, però io non credo proprio a questa dietrologia che il mio interlocutore ha avanzato, un po' scherzosamente, un po' no. Io credo che ci siano delle persone che si sono avvicinate alla politica e quando vedono che le pratiche della politica non sono coerenti con i propri principi morali se ne allontanano. Se posso dirlo, nel mio piccolo è successo un pochino anche a me. Io ho lavorato un mesetto a dicembre attorno a un progetto che poi è diventata quella cosa in cui non mi riconosco, che si chiama Rivoluzione Civile. Sì. Quando mi sono allontanato me ne hanno detti di tutti i colori, della serie ti ha pagato il PD piuttosto che ti ha pagato Sel, piuttosto che sei... Cioè volano queste accuse in politica. Sì, però effettivamente no, che dire, quattro giorni prima... Giglioli, tra un professore e un allievo della stessa università che fondano un partito, né io né lei abbiamo tre giorni prima è impossibile. Vabbè, però queste qua sono allusioni, mi perdoni, né io né lei abbiamo gli strumenti. No, vabbè, non c'è dubbio che io non so i fatti, però sta roba punta di merda lontano un chilometro. Occhio è che spesso dei cittadini che non hanno fatto politica e che sono abituati a comportarsi secondo un'etica personale abbastanza rigida si trovano a avere a che fare con le mediocrità, le mediazioni, le bugie, come si diceva prima, anche i dibattiti di corridoio all'interno dei partiti, ne hanno un po' schifo. Può essere, è un'ipotesi che avanzo, che sia successo questo. Non mi stupisce che i giornali di destra cavalchino violentemente questa crociata anti Giannino, fa anche ridere il Libero, di cui Giannino è stato a lungo. È l'anno del serpente. Detto questo, Giannino dava fastidio con la sua visione liberista ma anti-berlusconiana al centrodestra, non vedono l'ora di fregarselo. Io poi, se Giannino ha taroccato il curriculum o meno, oddio, non lo sappiamo, a me interesserebbe che qualcuno prendesse in considerazione le esecrabili idee e proposte di Giannino, per me ma il dibattito sulle idee va benissimo, insomma, è che qui volano un po' di stracci, poi chissà qual è la verità. Eccoci qua alle 6:47 minuti. Allora, l'alpino Peter Bescafè mi dice: si è impallato tutto il computer, quindi non vanno le sigle, non vanno i rientri, non vanno i jingle, quelle cose che fanno la radio. Dico, va almeno la segreteria telefonica? Va la segreteria telefonica. Ha ragione Bisio, ha ragione Forchielli. Siamo un paese di merda, con degli elettori di merda che eleggono politici di merda. Li manderei tutti quanti in miniera per 5 anni prima di fare la politica. Un paese che dopo 20 anni continua a riproporre lo scontro Bersagno-Psiconano, è giusto che vada ramengo. Con queste elezioni rischiamo di cambiare il male con il peggio, rischiamo di ritrovarci a dover adorare il dio Notav. Il dio Notav non è per nulla misericordioso e tantomeno lo sono i suoi adoratori. Ciao, volevo dirti che è piacevole sentire le notizie di tutte queste persone che vengono arrestate, ma che non ci vengono a dire che sono incompatibili col carcere, perché noi lo accettiamo. Quindi pensiamo bene di mandarli in miniera e mandare invece i minatori un mese a Courmayeur, così magari si disintossicano un pochino da tutti i fumi che hanno mangiato in questi anni. Grazie, ciao. Sai che ti dico? Che la zappa o la mazza non bastano più. Ci vuole l'aratro per tutti questi politici e nonne, e legarli come buoi all'aratro a due e fargli orare la terra, che ci sono tante terre incolte. Bisogna essere più incisivi, Milan, se no bisogna andare a lavorare te, Cruzzani, Parenzo, tutti con il contadino di Terni. Censura anche questo. A quelli che hanno bisogno della zappa da 7 kg, passate poi alla mazza da 10 kg. Sono d'accordissimo con il contadino di Terni. Per essere in sintonia con quell'epoca, gli si dovrebbe togliere l'uso della carta igienica e sostituirla con uno straccio di maglia di lana vecchia da usare in bagno da tutti i componenti della famiglia. Vabbè, insomma, il nostro contadino di Terni, Alessandro Giglioli, tu il contadino di Terni l'hai già incrociato, no? Forse. Ma l'ho anche citato nel mio blog ieri. No, ma no, me lo sono perso. È diventato ormai un topo. Ma guarda che c'è un giallo dietro, perché non so, Forchielli conosce il nostro contadino di Terni che ci ha lasciato dei messaggi in segreteria? No, però mi è piaciuto molto. Tu è citato da tutti, perché allora glielo faccio sentire, è colui che evoca per i politici che cosa? La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita. Ecco, e poi non contento evocò anche di più nella nostra segreteria telefonica. Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause perse, ci serva più. La zappa non basta più, la mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Te saluto. Ecco, Forchielli, questo è il nostro contadino di Terni, Angelino, che però si è spaventato, dice che ora in paese lo prendono in giro, non vuole più intervenire. È una bella ricetta questa, un po' cinese, come quella della mazza e della zappa. Sì, lo sfogo adesso, non molto praticabile, però... Per Forchielli è normale, perché in Cina li trattano così e quindi... No, li hanno chiusi i campi di lavoro. Ah, li hanno chiusi. Li hanno chiusi. Ahimè, dice ahimè. No. Ahimè, sì, no, non c'ho neanche dei riferimenti, capito? Ma come ahimè? Giglioli, ma qui Forchielli, ragazzi. Guarda, più che cinese mi pare molto una soluzione cambogiana. Io sono stato in Cambogia, ho visto cosa Pol Pot, no? Prima i politici, poi i professori, poi i maestri elementari, poi quelli che avevano gli occhiali sono stati portati. Sì. Ma il nostro contadino di Terni. Aspetta un secondo, sì. Perché lo sfogatoio che tu rappresenti, Alessandro, sì, così come rappresentano tanti siti internet, tante altre. Lo sfogatoio forse fa bene sul breve, ma non aiuta poi, se posso dirlo, poi ognuno si sfoghi. Lo sfogatoio è la condizione per l'immobilismo. Cioè, se uno si sfoga poi non fa assolutamente nulla. Io non voglio dire far politica, ma anche semplicemente nel cercare un po' di migliorare le cose, a cominciare dalle cose scandalose di cui il contadino di Terni è diventato il topos, l'emblema, no? Sì, cioè quello di una classe politica che fa oggettivamente. Ma infatti, secondo me aveva ragione Bisio. Guardate che qui io, quando l'ho messo Bisio, che poi questo ascoltatore ha accomunato Bisio e il nostro Forchielli, cioè dire anche noi elettori, questo era il senso di, voglio dire, basta sfogarsi e basta. Noi elettori siamo anche un po' il problema, non solo gli eletti, non solo quelli che mettiamo là. Ma guarda, infatti, che quando c'è stata tutta la polemica sugli impresentabili, io ho fatto un tweet e un fatto su Facebook dicendo: ma non si potrebbe fare qualcosa anche contro gli elettori impresentabili oltre contro i candidati? Forchielli, l'ha sentito quell'ascoltatore che dice ha ragione Forchielli, ha ragione Bisio. Bisio, lei se lo sarà perso il Festival di Sanremo, l'ha visto il Festival con Bisio? No. Bisio ha detto tutti a casa, ma non i politici, non gli eletti, gli elettori, noi. Sì, io difatti la mia tesi è che il paese in questi ultimi 30 anni sia regredito mentalmente, culturalmente. L'Italia è un paese che è andato indietro. Me lo ridica adesso, è il momento. No, stiamo ricretinendo, voglio dire, fino al punto in cui siamo effettivamente feccio, lavorando all'estero si lavora uno deve prima chiarire le sue posizioni, prima che la gente ti ascolti. Siamo tutti imbazzurliti, come... Sì, ma quello in particolare è Berlusconi, ma mi sa che si è anche un po' rimesso a posto. Come si rimesso? Monti, se... che sta scivolando giù per le scale di cantina. Ah, è Monti adesso che si è imbazzurlito. Sta rotolando giù per le scale di cantina. E come mai? Come mai? Non lo so, non si vede che non è un politico, se non ce l'ha, ma lo... è stato un macello. Attenzione, perché Forchielli ha detto: io se avessi votato avrei votato Monti. Voi? Ma invece adesso è Monti che sei. Invece lo vedo, cioè, incoerente. Prima mette l'Imu, poi dice che lo sta, ma che tu vuoi che tocca? Com'è che sta rotolando per le scale della cantina? L'immagine. Mi è venuta in mente adesso l'immagine di Monti che rotola per le scale della cantina. Vabbè, vi saluto su questa immagine che è forchiellianamente efficace. Vi ringrazio Alberto Forchielli e Alessandro Giglioli per essere stati con noi. Diamo spazio al giornale radio delle 7. E poi ci ritroviamo per la rassegna stampa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Alle 7:21 minuti siamo qui, cari ascoltatori, eccoci nuovamente in diretta per la lettura dei giornali. Vi ricordo gli ospiti: avremo ospite tra un'ora scarsa, alle 8:15, il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo. E poi parleremo, insomma, di piazze piene per qualcuno, come Beppe Grillo, TV vuote sempre per qualcuno, Beppe Grillo, e TV piene per altri, il dibattito TV che non si fa, Beppe Grillo che in TV dice non ci vado perché vado in piazza, in TV o in piazza. Di questo tema parleremo, avremo un ospite del Movimento 5 Stelle, il capolista in Toscana alla Camera, Alfonso Bonafede, avremo anche Massimo Bernardini, giornalista e conduttore di TV Talk in Rai, da anni massimo esperto del mezzo anche della TV. Ne parleremo di questo alle 8:30, allora andiamo subito a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Questo martedì 19 febbraio non c'è un titolo comune, ogni quotidiano sceglie una propria apertura, vediamole velocemente. Il Sole 24 Ore fa un'analisi dei programmi sui tagli fiscali dai partiti, un miraggio da 180 miliardi, questa è l'analisi dei programmi. In 5 anni i vari partiti promettono di tagliare 180 miliardi, con che coperture? Beh, insomma, cari lettori, chiedete proprio tutto e volete sapere proprio tutto. Il Corriere della Sera, elezioni, il peso degli incerti, questo è il titolo di prima pagina. Per Repubblica, Berlusconi, fuga dal duello TV. La Stampa, ripresa lenta, servono più sforzi, è l'allarme di Draghi al Parlamento Europeo. Il Messaggero propone invece un'intervista a Monti, che dice una Camera all'opposizione, cioè il presidente di una delle due Camere sia di un partito di minoranza che non vincerà le elezioni. Libero e Il Giornale invece si concentrano su Oscar Giannino e la polemica per il titolo di studio falso, scrive Libero, il declino di Giannino in prima pagina, mentre Il Giornale l'Oscar delle balle. Il Giornale pubblica anche un'intera pagina di intercettazioni di Oscar Giannino in una vicenda che poi vedremo. L'Unità, la falsa alleanza PDL-Lega. Il Fatto Quotidiano invece apre su Finmeccanica, scandalo, l'amministratore delegato Pansa chiedeva soldi per l'ex moglie di Grilli, cioè l'attuale ministro dell'economia. Il Manifesto invece, fuori programma, apre sulla rivolta al centro di identificazione e espulsione a Roma di alcuni immigrati. La prima pagina di Avvenire, il popolo di Benedetto, il silenzio e la preghiera, il Papa agli esercizi spirituali. Parto, e come ultima citazione questa di Avvenire, proprio dalla vicenda del Papa, perché c'è una vicenda che sta, un caso che sta montando, come abbiamo sentito anche in GR24, vale a dire il caso del cardinale Mahoney, cardinale ex di Los Angeles, la più grande diocesi degli Stati Uniti, è stato vescovo lì dal 1985 al 2011, quando ha raggiunto l'età della pensione, ma è stato rimosso e poi quando è andato in pensione il suo successore José Horacio Gomez l'ha rimosso e ne ha, ha usato anche parole molto dure nei suoi confronti. Perché? Perché Mahony è coinvolto nello scandalo pedofilia che ha travolto la sua diocesi, costretta nel 2007 a pagare 660 milioni di dollari alle vittime degli abusi. Allora ne è nato un caso, perché il cardinal Mahony tra qualche giorno dovrà entrare, come tutti i cardinali, in conclave per scegliere il nuovo papa. E anche Famiglia Cristiana ha posto questo sondaggio, secondo voi agli elettori è giusto che il cardinal Mahony possa entrare, un cardinale accusato di avere coperto degli abusi sessuali da parte dei sacerdoti della sua diocesi, possa eleggere il nuovo papa? Scoppia il caso Mahony, coprì i preti pedofili, sia escluso dal conclave. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, Gian Guido Vecchi, a pagina 12, ma tutti i giornali dedicano pagine e pagine a questo tema, che è un tema davvero internazionale. Repubblica con Federico Rampini fa un reportage da New York, la sfida finale del prelato che l'America non perdona, eleggerò il nuovo papa. Sabato, tra l'altro, come racconta anche Avvenire, dovrà deporre. Contro di lui ci sono 12.000 pagine della diocesi di Los Angeles. È stato proprio, racconta Rampini, il suo successore José Gomez ad allontanarlo da ogni responsabilità. Quindi ho aggiunto un commento su quelle 12.000 pagine. Sono una lettura brutale e dolorosa. Leggerla è stata l'esperienza più triste. Non posso disfare gli errori del passato e le ferite causate. Ecco, questa è la condanna verbale dell'attuale successore di Mahony, che in pratica dice sono una lettura triste questo rapporto, che testimoniano insomma degli errori fatti in passato. E allora ci si ripone questa domanda: può questo cardinale entrare in conclave? Dal punto di vista della legge vaticana assolutamente sì, nulla osta, come si suol dire. Ma c'è un'interessante intervista a Repubblica da parte di Orazio La Rocca, uno dei vaticanisti, al cardinale Velasio De Paulis, 78 anni, giurista, già segretario del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, presidente emerito della Prefettura per gli Affari Economici, che dice: la situazione è sconcertante, bisogna convincerlo a restare a casa. Sembra che sia intenzionato a entrare in conclave, dice il cardinale De Paulis. Se viene, avrà avuto qualche indicazione speciale per intervenire. Spetta alle autorità giudiziarie americane fare piena luce. In questi casi occorre applicare la Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, le norme varate da Giovanni Paolo II sull'elezione papale. Ma certo, dice il cardinal De Paulis, Mahony andrebbe consigliato da chi è in grado di capire la situazione alla luce della verità, con un ricorso alla persuasione. Ma va detto che stava lavorando bene. Starà alla sua coscienza decidere se venire. Così risponde il cardinale De Paulis alla domanda se la sua presenza in conclave potrebbe creare imbarazzi in Vaticano. Insomma, la situazione, bisogna convincerlo a restarsene a casa. Questa è l'unica via, secondo il cardinale De Paulis. Anche su L'Unità, una pagina, il conclave, il caso Mahony esplode a Roma, e anche Il Giorno mette sicuramente questa notizia, cioè Famiglia Cristiana, domanda shock, Mahony è degno del conclave. Beh, è interessante che un settimanale cattolico ponga questa domanda molto diretta ai suoi lettori. Voglio lasciare questa vicenda e raccontare quello che troviamo su Repubblica, che credo riguardi anche molti consumatori italiani. Anche questa notizia l'abbiamo sentita nel giornale radio. Silvia Bernasconi racconta, pagina 18, su Repubblica, della vicenda della carne di cavallo nei tortellini, e quindi sono stati ritirati molti prodotti dagli scaffali da parte della Nestlé, che ha ritirato i prodotti buitoni in Italia e in Spagna. Non c'è alcun allarme sulla sicurezza, ma in via precauzionale, visto che è stata trovata la carne di cavallo in alcuni prodotti in Gran Bretagna, da lì sono state ordinate dei controlli. E da qui ecco lo scandalo della carne di cavallo venduta come carne di manzo, scoppiato in Gran Bretagna con gli hamburger, poi con le lasagne Findus, si allarga, arriva in Italia. Ieri la Nestlé ha deciso di ritirare dagli scaffali italiani e spagnoli confezioni di ravioli e tortellini di manzo, dopo che i test hanno rilevato tracce di DNA di carne di cavallo pari all'1%. Questo ha rivelato il Financial Times Online, citando un comunicato della multinazionale. Secondo il quotidiano britannico, la Nestlé ha ritirato in Italia e Spagna due prodotti di pasta congelati, i ravioli e i tortellini della Buitoni. Nestlé ha rassicurato sul fatto che non ci sono problemi di sicurezza alimentare e i prodotti sostituiti saranno ritirati, saranno sostituiti con altri che i test confermeranno essere al 100% carne di manzo. Insomma, questa vicenda che piano piano ha assunto anche dimensioni più ampie per i consumatori, ora tocca anche l'Italia, racconta il Financial Times. 24 mattino. Siamo qua allora alle 7:35 minuti sulle ultime schermaglie della campagna elettorale, mancano 5 giorni. Allora, siete tra coloro che non sanno ancora se e per chi votare? Siete tra questi? Beh, sappiate che siete in buona compagnia, perché come titolo oggi in prima pagina il Corriere della Sera, il peso degli incerti è quantificato al 30%, racconta Renato Mannheimer, con una premessa: in questi giorni non si possono comunicare i risultati dei sondaggi in corso sulle intenzioni di voto, ma vi è un dato, pare, emerso dagli studi che vengono effettuati in questo periodo, del quale si può e vale la pena parlare. Lo hanno evocato diversi leader politici. Si tratta del permanere a pochissimi giorni dal voto di un numero relativamente elevato di persone che dichiarano tuttora di essere indecise o tentate dall'astensione. Secondo le ultime rilevazioni, la numerosità di costoro si avvicina ancora al 30%, vale a dire che sino a questo momento quasi un cittadino su tre non ha deciso se e chi votare. Si tratta in larga misura di donne, meno giovani di età, con titoli di studio relativamente bassi, spesso residenti al sud, di professione casalinghe o pensionate, specialmente molto poco interessate alla politica. Questo è il profilo che ne dà Renato Mannheimer. Ne è prova anche il fatto che più di metà degli attuali indecisi o potenziali astenuti dichiara di sentirsi estraneo al posizionamento sul continuum destra-sinistra e si rifiuta di collocarsi in una posizione specifica su questa dimensione. Insomma, non sa se è di destra, di centro o di sinistra. È il 30%, tanto che conclude l'articolo di Mannheimer in pagina 2 del Corriere della Sera: il risultato elettorale di domenica prossima è ancora difficilmente prevedibile, viste questi incerti. Anche sul Quotidiano Nazionale, a pagina 4, è uno dei temi: mai così tanti indecisi alle urne e, secondo tutti i sondaggisti, l'astensione farà boom, ci sarà un boom di astensionisti, di persone che non andranno a votare. È così, questo è il dato di fatto. Una campagna elettorale sicuramente brutta, ma si dice sempre così, sono sempre brutte, non si parla mai di contenuti, ma si parla sempre di facce e di scontri tra personalità. E non ci sarà, a meno, sempre allo stato dell'arte, al secondo giorno su cui si dibatte, in cui si dibatte sui giornali, il dibattito televisivo. Ci sarà, non ci sarà? Pare di no, pare proprio di no. Monti lo chiede, tra l'altro c'è un retroscena interessante a questo proposito su Repubblica, a parte di Goffredo De Marchis, lo trovate a pagina 3 appunto, e racconta sotto il titolo "Gubitosi si ritrova sotto assedio ma nessuno sgarbo al PD", Gubitosi è il direttore generale della RAI. Alla RAI cominciano le grandi manovre per il dopo voto, scrive Goffredo De Marchis: l'unica cosa inaccettabile è un confronto TV con una sedia vuota, questo non si può fare. È quello che ha detto Luigi Gubitosi, sperimentando le pressioni dei partiti sulla RAI. Perché? Perché Berlusconi, che racconta Repubblica, sarebbe già infuriato per il fatto che non sia stato spostato al Festival di Sanremo e quindi avrebbe detto: mi avete già tolto una settimana di campagna elettorale, una campagna elettorale già corta. Ora dice e fa pressione alla RAI, come dire, si faccia assolutamente questo confronto. Non lo vuole fare Bersani, si faccia senza Bersani. Questo sarebbe il retroscena di Berlusconi, che in realtà ufficialmente dice: il confronto lo voglio fare solo con Bersani. Però l'attacco, scrive Repubblica, di Paolo Bonaiuti, cioè il portavoce di Berlusconi, non ha preso alla sprovvista il manager che da 7 mesi guida la RAI, cioè Gubitosi. Berlusconi è fuori di sé contro i vertici dell'azienda pubblica, non ha digerito appunto la conferma di Sanremo, ora dice: mi dovete concedere almeno il confronto televisivo, chiamate i tre leader delle coalizioni, anche Monti, e se Bersani rifiuta peggio per lui. Ma il tema è: non si può certo fare un confronto senza, con una sedia vuota, diciamo, del leader della coalizione del centro-sinistra. Questo è un retroscena, chissà se è così, chissà quanto fregherebbe agli italiani di vedere un confronto televisivo. Per molti sarebbe importante, altri si accontentano di vedere esondare anche dalla lavatrice, dal frigorifero e quando aprono dal forno a microonde tutti i candidati che a tutte le ore appaiono in televisione. Sta di fatto che insomma queste sono le ultime schermaglie di campagna elettorale, sono tutti un po' contro Beppe Grillo, questo fanno notare ancora i giornali, perché Beppe Grillo certo si è messo in una posizione di essere molto criticato rinunciando all'intervista Sky, come dire io parlo alla gente ma non accetto di interloquire con i mezzi classici, con le interviste televisive. Di questo tra l'altro parleremo alle 8.30, cioè c'è chi va in piazza come Beppe Grillo e si rifiuta sistematicamente della TV, ci sono invece dei candidati che vivono soprattutto in funzione delle interviste televisive. E allora sono interessanti alcuni articoli, uno di Andrea Scanzi che vi segnalo sul Fatto Quotidiano, la piazza di sinistra, il treno del Duce, ecco Grillo a Roma, racconta Andrea Scanzi a pagina 4 del Fatto, è una vera e propria marcia su Roma 2.0, quella degli attivisti 5 Stelle che pare inarrestabile, appuntamento venerdì sera ore 21 piazza San Giovanni, prevista pioggia, e i parallelismi sono quelli con similitudini apparenti della marcia su Roma più celebre di Mussolini, questo scrive Scanzi, ovviamente fa un parallelo, era il 28 ottobre 1922, Mussolini partì la sera successiva da Milano col direttissimo numero 17 delle 20:30, viaggiò in vagone letto, il convoglio arrivò nella tarda mattinata del 30 interrotto da orde di fascisti festanti, giunto a destinazione il Duce incassò dal re Vittorio Emanuele III l'incarico per governare. Grillo si accontenterà di radunare una folla di cittadini. Il luogo era quello sacro alla sinistra, un tempo c'erano i girotondini, oggi l'hashtag sarà un piacere dei... ovviamente, scrive Scanzi, paragonare il Movimento 5 Stelle al fascismo è un'assurdità tanto colpevole quanto commovente. Però insomma c'è questo parallelismo che anche il Foglio mette in prima pagina con il titolo La marcetta su Roma di Grillo tra nevrosi e studi web accademici, è l'editoriale di prima pagina sul Foglio di Marianna Rizzini, ora che anche Silvio Berlusconi scrive usa per descrivere Beppe Grillo la definizione così a lungo usata contro di lui, cioè pericolo per la democrazia, Beppe Grillo prepara grandi balzi la sua marcia su Roma, compresa di Piazza San Giovanni venerdì 22, una prova muscolare che prelude all'inveramento della promessa minaccia, ci vediamo in Parlamento, sarà un piacere, che questo è un po' il mantra che ripetono tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Le critiche a Beppe Grillo oggi arrivano anche dal ministro del welfare Elsa Fornero, che viene intervistata dal Secolo XIX a pagina 3 in un'intervista di Daniele Grillo. Fornero: capisco lo scontento, ma lui dice solo falsità. Chi propone di risolvere i problemi del paese con degli editti, magari al primo consiglio dei ministri utili, sa di pronunciare vere e proprie falsità. L'Italia merita discussioni più serie di quelle che proposte da un tribuno da piazza. Si scaglia così contro contro Beppe Grillo, Elsa Fornero. Scrive il Secolo XIX. Alla domanda Grillo fa il pieno in piazza, che ne pensa? Capisco lo scontento delle persone, risponde il ministro Fornero, lo capisco perché conosco la situazione dell'Italia, so che molte famiglie stanno soffrendo a causa dell'assenza prolungata di lavoro. Credo però nella saggezza degli italiani nell'analizzare coloro che propongono soluzioni facili, falsità, strumentali a sfruttare un malcontento che ha radici nelle persone. Sta di fatto tutti contro Grillo, mentre regna lo scazzo vero e proprio Zingales Giannino, questo sui giornali, perché ieri Luigi Zingales, professore a Chicago, la Chicago Booth, cinque giorni prima del voto dice fermare il declino, perché sono tra i fondatori di Fare, ma lascio perché Giannino ha mentito nel suo curriculum vitae, ha messo un master alla Chicago Booth dove io insegno, ma ho scoperto che tutto ciò non è vero. Zingales molla Giannino e attacca, falso il master nel suo curriculum, il primo articolo che vi segnalo è del Corriere della Sera, Monica Guerzoni a pagina 8. È un incidente, chi dice di no? Così alle 8 di sera risponde Oscar Giannino al telefonino. La mia grave colpa è quella di non avere controllato quella roba che girava sul web. L'altra colpa grave è aver fatto in quel video un riferimento al master a Chicago. Luigi, cioè Zingales, mi ha detto hai mentito, e io gli ho risposto smentisco, che problema c'è, ma lui non è bastato. E adesso che succede? Chiede il Corriere, ne misuro le conseguenze. Non mi stupisco di niente, ma non siamo nati ieri. Un fondatore che se ne sta in America e se ne va a 5 giorni dal voto, puntini puntini. Ma cosa c'è dietro questo? Beh, il Libero e il Giornale non aspettavano forse altro per attaccare Giannino, infatti in prima pagina Giannino, già criticato molto da Berlusconi, in prima pagina di Libero e il Giornale i titoli sono il declino di Giannino per Libero e il Giornale l'Oscar delle balle, ma Sallusti sul Giornale fa qualcosa di più. Pubblica un'intera pagina di intercettazioni in cui è coinvolto Oscar Giannino. Giannino e le pressioni su Formigoni, questo è il titolo della pagina di intercettazioni che trovate a pagina 7 del Giornale. Contro Oscar Giannino, è una vicenda per la quale Oscar Giannino, per un appalto di teleospedale, un'inchiesta per la quale Oscar Giannino è stato prosciolto anche su richiesta del pubblico ministero, e quindi il Giornale scrive nulla ne è uscito indenne da questa inchiesta, il PM ne ha chiesto il proscioglimento, ma vengono pubblicate tutta una pagina di intercettazioni tra Alberto Uva, un mediatore, e appunto Oscar Giannino, nel quale Giannino si riferisce anche a Roberto Formigoni con toni molto duri, tipo io domattina vado al Pirellone, lo prendo per la collottola, oppure ancora parla con questo mediatore, noi te la facciamo rompere sotto il culo perché a me di Formigoni in questo momento non me ne frega niente, io a Formigoni ho detto che dopo 20 anni che sta lì lui non doveva candidarsi e candidarsi a fare il premier, quindi sono in condizioni di forza con lui. Cioè parlano come dire, andare da Formigoni, soprattutto Oscar Giannino, e fare la voce grossa. In realtà dal punto di vista penale appunto non c'è nulla, nel senso che Oscar Giannino è stato prosciolto, il PM dice ha dato ampie e ha fornito ampie spiegazioni sulle conversazioni, ma il direttore del Giornale Alessandro Sallusti lo critica in prima pagina molto duramente, dicendo pubblichiamo tutta questa serie di intercettazioni che certo non danno l'idea del gentleman che appare in pubblico, e quindi per il Giornale l'Oscar delle balle, quando il giornalista intercettato faceva pressioni su Formigoni e lo insultava, questo trovate oggi sul Giornale. Scegliete voi, ma insomma sono anche veleni da campagna elettorale. Altri veleni e questioni di inchiesta riguarda invece Finmeccanica. C'è uno sviluppo molto molto importante di cui parlano i giornali, e sono sul Sole 24 Ore a pagina 8. Orsi, cioè l'ex amministratore delegato arrestato, e le nuove carte sulla Lega, racconta Marco Ludovico. Soprattutto c'è questo nuovo capitolo che riguarda l'attuale amministratore delegato Alessandro Pansa, che è stato nominato dopo l'arresto di Orsi. Ebbene, secondo l'accusa della procura, Alessandro Pansa in passato fece pressioni su Mediobanca e su dirigenti di Mediobanca per ripianare i debiti della signora Lisa Lovenstein, che è la ex moglie dell'attuale ministra dell'economia Grilli. Se non vi siete raccapezzati in tutto questo intreccio, però in realtà i protagonisti sono protagonisti di primo piano. Debiti per circa 400-500 mila euro. Dopo attenta valutazione però i banchieri si rifiutarono di ripianare questi debiti. Allora la vicenda coinvolge direttamente l'attuale amministratore delegato, anche se per una vicenda del passato, e il Fatto Quotidiano con Marco Lillo lo chiama al telefono. Chiama al telefono l'amministratore delegato Pansa, la conversazione la trovate a pagina 2 e 3, il titolo è «Se scrivete dovrò dimettermi, anzi no». Pansa: «Stiamo scrivendo un articolo sulla base di testimonianze». Nagel, cioè ex dirigente di Mediobanca, ha riferito al PM che lei chiese nel 2007 a Mediobanca di dare una mano alla moglie del ministro dell'economia Grilli. Non ho alcun ricordo di questa cosa, risponde Pansa. Le devo confessare che non lo so, è una cosa che mi lascia stupefatto, non so cosa abbia detto Nagel, la ringrazio di avermi telefonato, è una cosa che devo pensare e verificare, di una cosa del genere non me la ricordo. Ma lei è amico di Grilli? Certo, ci conosciamo da tanti anni. E conosce anche la ex moglie? Assolutamente sì, l'ho vista un sacco di volte. Aveva milioni di euro di debiti con le banche? Non me lo ricordo. E poi a un certo punto Pansa dice... guardi, questa cosa è terrificante, se voi la scrivete riapre tutto un casino bestiale, se la scrivete io domani molto probabilmente dovrò trarne le conseguenze. Mi spiego? Nel senso che si dimetterà, chiede il Fatto. Non lo so, secondo lei cosa dovrei fare? Se la cosa è vera lei sta in condizioni difficili, non c'è alcun dubbio. Poi dopo un'ora, scrive il Fatto, lo stesso Pansa chiama Marco Lillo. Ci ho ripensato e le parlo a mente fredda. e dice: non ricordo di avere fatto questa cosa, ma se anche l'avessi fatta, l'ho fatta a titolo personale e non coinvolgendo Finmeccanica. Questa dunque la risposta di Pansa, l'amministratore delegato intervistato di Finmeccanica, intervistato dal Fatto Quotidiano. Beh, davvero una cosa, una vicenda che rischia di alimentare nuove polemiche sull'inchiesta. A proposito di invece dati, c'è questo dato che è l'apertura del Sole 24 Ore, vado un po' di fretta perché il tempo stringe, e che è l'analisi dei programmi elettorali. Il Sole fa una attenta e minuziosa analisi di quello che promettono le varie coalizioni. Trovate a pagina 2 tutto: Bersani, Berlusconi, Monti, Grillo, Ingroia e Giannino. Cosa propongono su pressione fiscale, IMU, patrimoniale, lotta all'evasione? Ebbene, il risultato, ve lo sintetizzo con una cifra, è che in 5 anni, messe tutte insieme, chi più chi meno, si promette di ridurre le tasse per 180 miliardi di euro. Roba da dare il voto a tutti. Votiamoli tutti. Non si possono mettere al governo tutti, no? E infatti il titolo del Sole 24 Ore si legge anche un po' di ironia: sgravi, miraggio da 180 miliardi. Dino Pesole fa un'analisi, ripeto, molto minuziosa di quello che taglierebbero in termini di tasse, cuneo fiscale, abolizione dell'IRA, per chi più ne ha, più ne metta, lotta all'evasione fiscale, la promessa di recuperare 180 miliardi di euro in 5 anni. E quando si va all'analisi delle coperture, già, ma si recupera, ma le coperture? Qui verrebbe da dire: beh, cari elettori, volete sapere davvero troppo. Accontentatevi di sapere questo. 180 miliardi se si applicassero i programmi che vengono annunciati. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:16 minuti. Allora, vogliamo parlare di attualità economica e anche politica. Conosce il sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo, che saluto. Buongiorno sottosegretario. Senta, le faccio intanto questa prima domanda: sai che è tornata Tangentopoli? Perché così ha detto il premier Mario Monti, lei come la vede? Ma Tangentopoli, ci sono fenomeni un po' di corruzione, indubbiamente, anche l'effetto, la coda di fenomeni passati, penso per esempio a MPS, no? Dire che è un fenomeno generalizzato forse è un po' eccessivo, insomma. E poi hanno un po' le cose che sono state denunciate sulla stampa e l'intervento della magistratura mostra un po' un fenomeno che ha caratteristiche sue peculiari, cioè? Nel senso che sono procedure che nel mondo degli affari, specialmente a livello internazionale, sono molto più diffuse di quanto a prima vista si possa pensare, che riguarda un po' tutti i paesi, non soltanto l'Italia. Cioè, sta dicendo naturalmente che... il problema è vedere se poi le commissioni pagate per acquisire commesse all'estero hanno un effetto di ritorno in Italia, nella quale ipotesi sarebbe molto più grave la situazione. Ma questo credo che sia un compito della magistratura su cui... Certo, ancora... cioè sta dicendo che c'è una differenza tra una commissione e una tangente. Dove passa la differenza? Ecco, questo è un problema molto delicato da un punto di vista giuridico, perché la commissione, si dice che la commissione, la differenza sta nella tracciabilità del pagamento che viene effettuato. Però il pagamento, se il contraente chiede riservatezza nella commissione, sì, come riusciamo a contabilizzare la commissione stessa nel bilancio della società? Perché non basta mettere una voce pagamento di commissione, il pagamento della commissione richiede poi naturalmente una giustificazione contabile, quindi una fattura, una ricevuta e cose di questo genere. Però per calarla, mi scusi sottosegretario, sulla... Prego. Questione pratica, secondo lei c'è il rischio che, poi si vedrà con la magistratura, c'è il rischio che il caso Finmeccanica si siano scambiati quelle che possono essere possibili commissioni con possibili tangenti? Diventa realtà nel momento in cui si dimostra che la commissione pagata all'estero per ottenere la fornitura poi torna in Italia sotto forma illecita e venga distribuita a soggetti italiani. Mm. Questo è il compito della magistratura accertare. Per il momento c'è soltanto il sospetto, mi pare, almeno. E certo, questo sì. Alla luce di questo, secondo lei queste inchieste danneggiano interessi economici italiani nel mondo? Ma guardi, io faccio un ragionamento un po' di carattere più generale. Noi abbiamo alcuni, ormai le grandi aziende in Italia sono ridotte al lumicino. Cioè abbiamo Fiat, Eni, Enel, Finmeccanica più o meno, insomma. Per motivi diversi, e l'Ilva, per motivi diversi si assiste a una serie di interventi che rischiano di mettere in discussione questi insediamenti industriali. Credo che questo è un tema di riflessione su cui dovrebbero intervenire tutte le forze politiche. Mm. Noi non possiamo arrivare a un punto in cui c'è una desertificazione completa del tessuto produttivo italiano, perché l'effetto immediato su una disoccupazione che già viaggia intorno al 22% è drammatico. Dico 22% perché noi abbiamo un 11% di disoccupazione effettiva e poi abbiamo un 11% di cassa integrazione che equivale a un altro 11% del totale della manodopera occupata. Quindi siamo in una situazione drammatica, quindi in questo caso ci vuole una grande responsabilità sia dei manager, ma un po' di tutti i soggetti che operano in Italia. Il punto è se la responsabilità la si possa estendere anche a un magistrato che scopre delle ipotesi di reato. Cioè lei vede il rischio che così si... Io credo che il magistrato che scopre l'ipotesi di reato, prima di rendere, siccome c'è un segreto istruttorio, prima di rendere pubblica i risultati dell'indagine, deve essere assolutamente sicuro che siamo di fronte ad un'ipotesi di reato effettiva. Mm. Anticipare molto le soluzioni attraverso comunicati stampa oppure atti pubblici, se non si ha la certezza assoluta di quello che si sta facendo, si rischia un po' di determinare un effetto negativo. Senta, a proposito di Finmeccanica, non so se lei ha già letto questa mattina i giornali, ma insomma l'accusa è ora piomba sull'attuale amministratore delegato Pansa, perché secondo una testimonianza dei dirigenti di Mediobanca, nel 2007 Pansa chiese a Nagel di ripianare i debiti della ex moglie del ministro Grilli, l'attuale ministro Grilli, che allora era capo del Dipartimento del Tesoro. E, insomma, la vicenda è un po' intricata, ma va a toccare l'attuale amministratore delegato. Secondo lei, siccome è una vicenda sulla quale anche il ministro intervenne in passato con un comunicato su Sole 24 Ore, ha smentito tutto, ma secondo lei questo pone il ministro Grilli in una situazione di dover chiarire qualcosa sulla vicenda Finmeccanica? Credo che il ministro abbia già chiarito quando è emerso queste cose in passato. Credo che, conoscendo Vittorio Grilli per una persona che è, io personalmente tenderei a escludere cose di questo genere. Mm. Insomma, però anche se questo coinvolge adesso l'attuale amministratore delegato Pansa, al quale si sarebbe speso con Mediobanca per ripianare i debiti di 500.000 euro della ex moglie di Grilli. Pansa oggi viene intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: non ricordo, se ricordo l'ho fatto per motivi personali e non certo come Finmeccanica. Insomma, questo, visto che sono nomine che vengono fatte dal governo, pone qualche interrogativo anche a voi sulle nomine fatte. Sì, torno a dire, ma si tratta di fatti talmente scivolosi e talmente specifici che credo che è difficile commentarli. Insomma, si tratta, anche qui non basta un'intercettazione telefonica, insomma, ci vuole un'indagine seria con prove inoppugnabili. Stiamo parlando del ministro dell'economia, questo certamente è una delle persone più stimate a livello internazionale. Quindi anche queste cose che finiscono sui giornali, che diventa una macchina del fango, bisogna veramente, che in Italia bisogna avere un minimo di senso di responsabilità sulle conseguenze che questi elementi producono sull'immagine dell'Italia all'estero, con tutte le conseguenze del caso. Pensi soltanto come se una notizia di questo genere può avere un effetto immediato sugli spread, insomma, creare dei problemi veramente giganteschi. Allora, prima di fare perché l'Italia, il ruolo della stampa è fondamentale, però torno a dire, bisogna capire che stiamo maneggiando delle situazioni esplosive e quindi ci vuole un grandissimo senso di responsabilità, perché gli effetti indotti sono di gran lunga superiore a quello che possono essere le cause che le hanno originate. Senta, parliamo del Monte Paschi. Lei, credo, in un intervento sull'Huffington Post ha parlato di perdita ma anche di una lezione. Intanto, la perdita rischia di essere per i correntisti, secondo lei? Oppure... No, i correntisti non perdono, perché non, come lei sa, i depositi sono assicurati da parte dello Stato, quindi c'è un elemento di garanzia. Poi l'intervento che abbiamo fatto con i bond sono tali da garantire sicuramente, assolutamente, la solidità della banca, nel senso che qualora lei sa che se la banca non potesse pagare e restituire il prestito, ci sarebbe un intervento diretto dello Stato nel capitale della banca, quindi la banca continuerà ad operare, ha dei, un condizionamento molto forte perché, come lei sa, la concessione del bond richiede una sorta di controllo sull'attività complessiva della banca, la banca non può fare acquisizioni, una normale gestione patrimoniale, insomma i contentisti non perdono assolutamente. E la lezione quale sarebbe? Cioè, che cosa si è imparato dalla vicenda Montepaschi, secondo lei? Ma che è stata una vicenda abbastanza irripetibile, cioè nel senso che fu collegata a un momento di passaggio dell'economia italiana nel quadro delle grandi trasformazioni che avvenivano nell'economia internazionale. Ricordate che fu il periodo del risico bancario quello in cui tutte le banche italiane che uscivano dal settore pubblico subirono un processo di concentrazione che hanno portato alla costituzione dei grandi complessi, Intesa, Unicredit e quant'altro. E fu sbagliato l'acquisto, secondo lei, di Anton Veneta, ha letto alla luce di oggi? Ma sì, fu sbagliato perché fu pagato in modo eccessivo, ma fu la conseguenza di una serie di operazioni sbagliate. Non dimentichiamo che all'origine di tutto fu l'acquisto della banca 121, la banca del Salento, che avvenne negli anni 2000, all'inizio del 2000. Fu pagata il doppio di quello che valeva, il direttore generale della banca 121 diventa amministratore delegato di Montepaschi, che è abbastanza strano, no? Generalmente quando un'azienda compra un'altra azienda, non è che il direttore generale dell'azienda comprata diventa l'amministratore generale dell'azienda acquirente. Quindi già questo fatto indicava che c'era qualche cosa di stravagante nell'operazione. Solo che gli italiani tutti dicono, ma come mai tutti se ne accorgono adesso? Per esempio, secondo lei Banca Italia ha fatto in pieno il suo lavoro di ispezione? Ma Banca Italia ha lavorato sulla base di quello che sono i suoi poteri. Se i poteri sono limitati, che non ha un potere di indagine più penetrante e si deve fidare dei documenti che gli vengono forniti, lei capisce che è difficile poi, se i documenti non sono forniti la Banca d'Italia conosce soltanto una parte della realtà. Di più. Io per esempio nella mia vita ho assistito molti anni fa all'intervento che fece Banca d'Italia sull'allora Banco di Napoli e sul Banco di Sicilia, dove c'era rischio di infiltrazioni mafiose, e devo dire che la Banca d'Italia ha lavorato con grande diligenza. Credo che anche in questo caso, nell'ambito di quelle che sono le prerogative stabilite dalla legge, non è che si potesse fare di più. Cioè, si cambiano le prerogative. Le finanze della Banca d'Italia sono adeguati rispetto alla complessità del mondo degli questo affari sì. di oggi. Senta, le chiedo questo, sottosegretario, l'aumento dell'IVA a luglio è ancora evitabile? Sì, secondo me sì, nel senso noi abbiamo una situazione di bilancio che sul piano strutturale noi siamo in linea con il fiscal compact, quindi non dovremmo avere grandi problemi. È vero che abbiamo una caduta maggiore del PIL, ma la maggiore caduta del PIL determina anche lascia inalterato il deficit di bilancio corretto per l'andamento del ciclo. Abbiamo alcune difficoltà di pagamenti che però sono compensati dal fatto che avremo dei risparmi nella spesa di interessi perché gli spread sono fortemente diminuiti, e poi abbiamo tutta la quota di lotta all'evasione fiscale che non è ancora contabilizzata. Quindi ci sono dei margini. Però è difficile dirlo, dobbiamo vedere quando a luglio fare un po' i conti. Bisognerà secondo lei vedere anche chi sarà il governo che andrà. Sì, certo. Le politiche che farà. Le politiche che farà. L'IVA, se l'IMU viene restituita sulla prima casa un conto, se non viene restituita un'altra. Insomma, ci sono alcuni aspetti ovviamente da vedere, chiaramente con la Svizzera, come no? vanno le elezioni. Le chiedo questo, lei in un ipotetico nuovo governo di cui lei immagino non farà parte, la sua esperienza si conclude qui dal punto di vista tecnico-politico, a che punto metterebbe il limite di tracciabilità del contante, secondo lei? Ma guardi, questo dipende molto da quello di come si organizza l'Agenzia delle Entrate. Perché l'Agenzia delle Entrate ha degli strumenti potenti di indagine, perché può controllare tutti i conti correnti. Potendo controllare tutte le attività bancarie, quindi i depositi che ciascuno di noi ha preso una banca, se attiva quelle procedure in modo penetranti si può anche aumentare la tracciabilità, no? Se invece queste procedure non vengono, se non si dà vita a queste procedure, allora sarà difficile ridurre anche, aumentare la, il limite di tracciabilità. Della tracciabilità stessa. Che dire, vabbè, non so se lei ci vuol dire chi voterà. Intanto ha deciso, perché pare che il 30% siano ancora indecisi degli italiani. Lei... Ma guardi, io siccome non vedo, devo vedere, darò un voto molto personale. Cioè nel senso molto personale, beh certo, tutti i voti sono... Devo vedere la lista, secondo la lista delle caratteristiche della... Dico devo vedere la lista perché non voto a Roma, quindi non votando a Roma ancora non so la Ma come fa? Non vota Monti, non vota il suo Presidente del Consiglio? Dipende da chi troverò nel luogo dove vado a votare la composizione della lista. Voterò sulle persone più che su... come dire, sugli schieramenti. Beh, però le persone, come lei sa, cioè, si troverà una lista bloccata con questa legge elettorale. Cioè, lei... deve vedere chi c'è in lista. Ma orientativamente non ce lo vuol dire? Cioè, Ma guarda, io sono stato in tutti, sono stato sempre in tutta la mia vita un riformista, quindi voterò per i riformisti dove li trovo. Però mi devono dare delle garanzie personali. E dove li trova? Quindi segue la domanda. Ma ecco, i riformisti sono un po' sparsi dappertutto, perché ci sono questi, in questi contenitori che abbiamo, sia nel PD, nel PDL, sia in Monti, ci sono delle persone, cioè faccio un esempio, insomma, se io mi trovassi davanti una persona che stimo, non sto guardando molto per la lista. No. Insomma, non ce lo vuole dire, secondo me lei ha deciso ma non ci vuole dire bene. No. Guardi, sono molto incerto. È molto incerto, tra il 30% degli italiani che non sanno ancora chi votare, insomma, mancano 5 giorni alle elezioni. Torno a dire, mi regolerò in quel modo, insomma, come vi ho detto. Va bene, intanto la ringrazio per essere stato a con lei, noi. Grazie, sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo. Noi ci fermiamo per 3 minuti dopo la pubblicità del meteo, allora parleremo di TV. Di piazze piene per alcuni, soprattutto Beppe Grillo, TV vuote sempre per Beppe Grillo, addirittura ha disertato la prevista intervista che doveva fare su Sky dopo 4 anni di silenzio. Altri invece candidati vivono praticamente nelle piazze virtuali, nella TV, e invece non vanno nelle piazze vere, non fanno o fanno pochi comizi. 24 mattino. Eccoci qua, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, sono le 8:35. Allora, parliamo di questa campagna elettorale entrata ormai nel vivo, tra stracci, veleni, accuse reciproche che volano a 6 giorni, 5 giorni, quanto manca, domenica e lunedì si vota. Lo facciamo con questo aspetto particolare di attenzione anche alla TV. Allora, da 2 giorni ci si interroga sul fatto se ci sarà o meno questo dibattito televisivo tra chi poi, Berlusconi, Bersani e Monti, o tra tutti no, non si sa. Mentre c'è chi va in piazza e le piazze le riempie tantissimo, sicuramente Beppe Grillo è uno di questi, forse uno dei pochi. C'è chi invece, come gli altri grandi leader, in piazza ci vanno molto meno e vanno nelle piazze virtuali, cioè vanno in TV, ormai esondano anche da frigoriferi e elettrodomestici quando li aprite al mattino. C'è chi invece in TV, visto che va in piazza, non ci va, anzi da buca la TV, dice farò un'intervista dopo 4 anni e invece all'ultimo momento pacca, lo stesso Beppe Grillo, perché dice la TV è morta. Allora, tra TV o tra le piazze, io voglio salutare Massimo Bernardini, buongiorno, sono anche buongiorno molto voi, onorato, insomma, un grande conoscitore del mezzo, conduttore, direttore di TV Talk su Rai 3 ogni sabato. Saluto anche un candidato, il candidato capolista in Toscana alla Camera per il Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, buongiorno e benvenuto Bonafede. Buongiorno a tutti. Allora, intanto la devo ringraziare, Bernardini, questo lo devo dire come premessa, dobbiamo ringraziare tutti Bonafede, perché per avere un esponente del Movimento 5 Stelle anche in radio è una rarità, è una fatica bestiale. C'è il nostro Alessandro Longoni che ieri, insomma, ha perso la testa per cercare di... quindi questo la ringraziamo. Perché Bernardini, Beppe Grillo, odia, non so se si possa usare questo verbo, la TV così tanto? Ma io mi sono fatto quest'idea, cioè... Allora, Grillo è in qualche modo l'urlo di rabbia e di revanche dei cittadini, no? Che soprattutto per esempio in questa settimana pazzesca in cui a me colpisce molto che in televisione questi politici, come dire, ormai si muovono secondo l'automatismo da ultima settimana, per cui non c'è più nessuna umiltà dopo tutti gli errori. errori che hanno fatto, no? Vanno dritti per la loro strada. In questo contesto allora Grillo è appunto l'urlo di rabbia rispetto a questa classe politica che ti ritrovi sempre uguale davanti, in qualche modo con tutti gli errori che ha fatto, senza nessuna umiltà. Però l'urlo per statuto è piazza in qualche modo, sì. No? Non palazzo cui venire a patti, questo è il punto. E i media, c'è poco da fare, sono in Italia in particolare un pezzo di palazzo, un pezzo di palazzo che, faccio un esempio, noi Rai per esempio siamo l'unico paese in Europa che ha un guinzaglio strettissimo verso il suo editore, cioè verso la politica, sì. Noi addirittura abbiamo una cosa che, provate a pensare all'espressione, commissione di vigilanza, noi siamo dei vigilati, no? Dai politici addirittura, però addirittura altri network, lo sappiamo, devono il loro destino alla politica, no? la loro crescita alla politica. Sì, sì. Quindi i mezzi di informazione sono visti come un'appendice del palazzo, e per questo, visti un po'. Se tu sei la piazza contro il palazzo, venirne a patti è la cosa più rischiosa. Infatti, fino adesso, secondo me, la genialità di Grillo è stata in qualche modo obbligare questa parte di palazzo a inseguirlo. No? Ed è andata benissimo, perché addirittura cioè ormai 5 Stelle dal punto di vista per esempio dei conti è contingentato come tutti gli altri soggetti politici, pur non andando in televisione lo spazio che devono dare i telegiornali è lo stesso degli altri partiti. È chiaro, sì. È un effetto, se volete, spesso si dice ma la TV è quella che crea anche il consenso per i politici. Questo è il caso contrario, in cui la non TV di Beppe Grillo crea comunque un consenso, perché crea anche un'attesa, un'aspettativa, andrà in TV o non andrà in TV, e intanto tutti vanno nelle piazze per seguirlo. Alfonso Bonafede, intanto lo chiedo a lei del Movimento 5 Stelle, perché questa un pochino di ritrosia, cioè di scetticismo, di vedere i mezzi di informazione come se fossero anche condotti da persone un pochino ostili? Questo è l'approccio che riscontriamo un po' in tanti del Movimento 5 Stelle. Perché, Bonafede? Diciamo questo, che innanzitutto la battaglia che noi facciamo non è tanto contro tutti i mezzi di informazione, quanto più che altro contro il talk show in particolare, che poi i mezzi di informazione, sia parliamo della TV sia i giornali, abbiano in questi anni condotto una lotta nei confronti del Movimento 5 Stelle, provando a metterlo ai margini della politica di questo paese, io direi che non c'è alcun dubbio, e le dico che ancora oggi mi ritrovo a rilasciare interviste ai giornali che sono che spesso le trovo completamente tagliate a metà, ed è sempre la metà. Ma lei crede che capiti solo a voi? Crede che capiti solo a voi? Non lo so, il punto è se a un certo punto si vuole essere conniventi con questo modo di fare informazione, o si può anche pensare che l'informazione in un paese come il nostro sia importante, e quindi a un certo punto portare avanti anche una sorta di contestazione a quel modo di fare informazione. Cioè io le posso dire che se io a Firenze rilascio una intervista in cui per metà parliamo di in generale della politica e per metà parliamo di Matteo Renzi, la parte in cui si parla di Matteo Renzi non viene completamente pubblicata, non si parla di fare una sintesi, di metterla, non siamo nati ieri, cioè si parla proprio di una parte dell'intervista completamente cassata. Allora il discorso è noi portiamo avanti quindi una battaglia contro un certo modo di fare politica e contro un certo modo di fare disinformazione, mentre non ci sottraiamo al confronto né con i giornali né con la televisione, nel momento in cui c'è un giornalista che ci viene a fare un'intervista, ci sottraiamo al metodo talk show. Però le chiedo questo: Beppe Grillo ha fatto bene? Adesso lei dirà sicuramente sì, perché guai dire che Beppe Grillo ha fatto male, le suggerisco già la risposta, ma ha fatto bene a rinunciare all'ultimo momento? Dopo 4 anni dice faccio un'intervista, poi dopo mezz'ora prima o 2 ore prima o 3 ore prima no, non la faccio più, perché i media sono morti, sono finiti, sono il male. Che strategia è? Francamente io non mi sento né di sostenerla né di criticarla, nel senso che l'intervista che decide di fare Beppe Grillo è una sua scelta personale. E non so come mai, ecco, mi aveva stupito più che altro il fatto di decidere di farla. Devo anche dire questo, che non era nulla di così rivoluzionario, cioè Beppe Grillo rilascia interviste in continuazione che poi vanno in TV. Con Sky, quando andammo nella prima tappa a Pistoia, in cui io ero assieme a Beppe Grillo, ci fu una lunga intervista proprio nel camper di Beppe Grillo, più o meno con lo stesso taglio che avrebbe avuto l'intervista che doveva rilasciare. Quindi a margine dei convegni le fa. Però vorrei tornare un attimo a Massimo Bernardini. C'è questo aspetto, fa parte del colore, e possiamo derubricarlo a quello, il fatto che Beppe Grillo prenda il giornalista della Rai, il camera, mi dica scendi dal palco perché tu sei di Rai 3, quindi non sei gradito, oppure TG.com giratevi di là perché sennò voi riprendete la piazza vuota e mi fate, cioè venire a patti con il mondo dell'informazione è davvero un qualcosa di complicato per il Movimento 5 Stelle. Ma secondo me però lì c'è anche la furbizia di Grillo, nel senso che io quello che mi aveva stupito era il nonsense del dire vado a dare un'intervista a Sky, allora decidi l'ultima settimana come cambio di marcia che dai un'intervista che raggiunge al massimo fra le 100 e le 300.000 persone, che senso aveva? Cioè, o tutte, la giochi tutte, allora ti fai tutta la settimana, come dire, alla Berlusconi, per dare un modello napalm che abbiamo visto in questo periodo, oppure stai fuori. Secondo me alla fine forse ci ha riflettuto e ha capito che non aveva senso rompere il digiuno, come dire, per un bicchiere d'acqua, insomma, allora o ti fai una damigiana di vino oppure lasci perdere. Però la questione è proprio questa, Bernardini, effettivamente hai messo il punto su un punto centrale. Io ho detto prima in maniera un po' ironica che ci sono dei leader, Monti, Berlusconi, che Bersani un po' meno, ma adesso non ho le cifre, che ci escono quasi dal forno a microonde al mattino quando accendiamo ormai. Allora sbagliano loro oppure ognuno segue la propria strategia giusta per come sono stati costruiti, cioè Berlusconi e Monti fanno bene così e Grillo fa bene a evitare? Ma innanzitutto secondo me ci sono dei passaggi diversi, per esempio Bersani secondo me sta facendo un uso molto più parco della televisione. Sì, attenzione. Senza dubbio. Sono Monti e Berlusconi, il top è Berlusconi ovunque, basta che respiri, e Monti invece è molto, molto, molto pesante come presenza, insomma. Ma secondo me Grillo però si è tirato fuori fin dall'inizio, cioè i talk show di cui parla male il candidato 5 Stelle, e da un certo punto di vista ha tutte le ragioni, perché anche noi come TV Talk sono anni che diciamo che è stanco il modello talk show, non solo per la politica ma per rappresentare in generale la realtà. Lui dice il talk show, ma in realtà è questo tipo di televisione, sono due scelte, è una scelta di campo totale, cioè se alla fine i talk show fin da 3 mesi fa hanno cominciato a inseguire le piazze di Grillo, chi glielo fa fare a loro, visto che questo inseguimento non è mai cessato, di rompere il patto, come dire, col paese, perché in qualche modo loro hanno detto noi siamo i diversi, noi non stiamo a questi giochi, cioè rompere questo patto proprio alla fine è molto rischioso. Infatti, probabilmente è quello che ha convinto poi Beppe Grillo all'ultimo momento a disdire questa intervista, che effettivamente non le avrebbe portato più voti, non le avrebbe portato più visibilità di quella che ha già girando per tutta l'Italia, e probabilmente invece le avrebbe portato qualche critica all'interno del movimento che c'è stata. Allora, si va in TV o si va in piazza? 800 24 00 24, sentirei Paolo da Palermo, ci ha chiamato. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Che ne pensa lei? Io che ne penso? Io penso una cosa, io penso che questa disamina del modo di fare politica del Movimento di 5 Stelle, Beppe Grillo e insomma tutto il suo entourage, la vedo un po' fuori luogo e anche inopportuna, perché ognuno decide di fare la campagna elettorale come meglio crede, chi lo mette in dubbio questo? No, basta che non fa reati penali, voglio dire, fino a qualche decennio fa le campagne elettorali si facevano con i comizi quasi porta a porta, si facevano nelle piazze, ricordiamo i classici comizi, voglio dire, Quindi non vedo nulla di strano. Ma no, ma infatti, ma siamo qui a parlare della decisione, ma perché lei vede, cioè, nessuno giudica, anzi, secondo me Beppe Grillo dal suo punto di vista fa la strategia giusta, come ci sta certo. spiegando anche no, Bernardini, dico, per anni ha detto io la TV no, e quindi fa bene a non andare in TV dal suo punto di vista. Ci sono ancora? Sì, certo. Cioè, no, volevo dire un'altra cosa, che tutta questa, come dire, consenso che sta prendendo il Movimento 5 Stelle, vorrei sì. fare ricordare che la campagna elettorale a Beppe Grillo non lo sta facendo né la TV, né il web, e nemmeno soltanto i politici. Gli altri, cioè gli altri. La campagna elettorale a Beppe Grillo. Guardi, lei sfonda con me, Paolo, una porta aperta. Io tutti i giorni twitto che appena leggo i giornali, Beppe Grillo al mattino probabilmente nel suo camper mette una mano nella vestaglia e si trova 200.000 voti. O mette le mani nelle tasche e si trova 200.000 voti. Basta leggere i giornali, gli scandali. Grazie, Paolo. Andrei a Vicenza da Stefano. Buongiorno, Stefano. Buongiorno, complimenti per la trasmissione di ogni giorno. Niente, io mi trovavo molto d'accordo con quello che ha detto il vostro ospite Massimo, se non sbaglio. Massimo Bernardini, sì, della RAI. Sì, e volevo aggiungere una cosa. Secondo me il modo di fare politica oggi è finito, quello dei talk show, come si faceva il paragone. E il modo di Grillo di andare in piazza, forse ha risvegliato anche una coscienza politica del popolo che si trova partecipe, andare a ascoltare, essere direttamente protagonisti magari di quello che sta accadendo, di questa campagna elettorale, perché il modo di fare politica in televisione, dove è tutto controllato, dove diciamo non c'è più una coscienza critica, ci sono pochi programmi secondo me che sono veramente critici e fanno delle analisi. Sì. Quindi fa bene, dice Beppe Grillo, a non andare, a riscoprire invece il valore delle piazze. Ma questo. Secondo me sì, perché avvicina di più la gente, la politica fa riscoprire magari anche un senso critico verso la realtà, tante cose che vengono nascoste, tante cose che vengono comunque raccontate in maniera poco veritiera, che purtroppo siamo pieni a partire dai telegiornali. Ah, perfetto, è chiarissimo, Stefano. Vorrei tornare per un attimo ad Alfonso Bonafede, come ha detto il candidato del Movimento 5 Stelle in Toscana. Secondo lei ha ragione l'ascoltatore a dire che in realtà più che degli scandali, più che della TV dove si va, dove non si va, sono voi raccogliete il voto di protesta nei confronti della politica attuale? C'è una base di protesta nel nostro consenso elettorale e direi che ne andiamo anche abbastanza orgogliosi, perché in qualche modo abbiamo permesso ai cittadini italiani di contestare un sistema che sembrava non contestabile in eterno. Devo anche dire che però il dato che a volte non passa è che laddove il Movimento 5 Stelle è entrato nelle istituzioni, lì raggiunge il maggior numero di consensi, cioè in Sicilia fino a 6 mesi fa, pur essendo la prima forza politica, aveva il 14%, ora si parla di picchi e vanno oltre il 20%, così come in Emilia-Romagna. Cioè poi il Movimento 5 Stelle al momento della prova del 9, cioè quella del governo fino ad ora sul territorio, perché ancora è la prima volta che andiamo alle nazionali, dimostra di fare buona politica e dimostra di avvicinare la gente alla politica, quella stessa gente che vediamo nelle piazze. Aggiungo una riflessione su quello che si sta dicendo, e cioè in realtà sì, è una scelta e tutto, però è anche una contestazione che viene fatta nel modo di con cui la classe politica, grazie alla televisione, continua a mantenersi in vita, cioè quello che un po' diceva Bernardini all'inizio, cioè oggi la politica riesce a non pagare gli errori e gli orrori del passato partecipando a questi salottini televisivi che nulla hanno a che fare con l'informazione. Faccio un esempio, cioè nell'ultimo anno il Parlamento è stato oggettivamente commissariato. Allora avevano detto che avrebbero fatto 3 cose, legge elettorale, abolizione delle province, vabbè lasciamo stare, non hanno fatto nulla. Nonostante questo assistiamo a quelle 20 persone che vanno in TV, a girare il cosiddetto teatrino, il cosiddetto teatrino della TV. E direi che non è una scelta quella che loro fanno, loro non scelgono di andare in TV piuttosto che andare in piazza, loro in piazza non ci possono andare, vanno in TV perché succede se vanno in piazza? Ma se vanno in piazza o si ritrovano piazze vuote o si trovano piazze piene di una rabbia che loro non vogliono. non vogliono incrociare. È interessante, è interessante, però no, si fermi un attimo, è interessante, no, Bernardini. Un'ultima cosa, proprio riguardo, io sono un grande fan di TV Talk, è l'unico talk show a cui andrei. Vabbè, è un tipo, no, perché è un tipo di dibattito, non è il discorso del talk in sé per sé, questo lo dobbiamo chiarire, è un discorso di talk sulla politica. Allora, ricordiamo che solo in Italia il talk show è diventato, fino a poco tempo fa si diceva che il porta a porta era la terza camera, ormai è diventata l'unica camera. Sì, no, questo è il concetto. Beh, intanto devo dire, Bernardini, se vuole invitare Bonafede, insomma, l'unica trasmissione televisiva. Io ringrazio molto la premessa, che purtroppo noi non abbiamo potuto invitare politici durante la campagna. No, però è interessante, perché... Bernardini, questa cosa, cioè dice Bonafede, gran parte dei leader che ci contestano vivono solo grazie alla TV, e poi Fini va, che ne so, il presidente della Camera va a fare un convegno ad Agrigento e ci sono 50 persone nella sala vuota. Purtroppo il ragionamento in realtà arriva dritto verso la classe giornalistica, però sì. Questo è il problema, nel senso che il vero problema è che probabilmente non c'è una classe giornalistica che davvero metta le strette sulla base soprattutto di una grossa preparazione / informazione. È un po' quello il problema, cioè quando tu ti siedi nel salotto televisivo, come dire, in una logica di par condicio, nel senso di allora io sono qui, dammi il microfono, lasciami parlare, lasciami il mio tempo, e no, no, la logica è solo questa. Cioè non si va in televisione per dire, allora io c'ho la mia proposta, mettiamola, come dire, sotto il fuoco di domande incrociate, domande critiche, dure, no, precise. Per carità. Addirittura stiamo arrivando alla fine che neanche l'unica cosa interessante davvero, cioè il confronto, per esempio a me il confronto Monti-Berlusconi sull'economia, ma anche Grillo insieme, sarebbe piaciuto da morire, proprio sulle proposte concrete. Anche Bersani mettiamoci, sennò poi ci dicono una parcondicio. Perché era la cosa, come dire... sono quelli che di più hanno argomentato su quei temi lì. Adesso non tiro fuori Bersani certamente da questo, però mi colpisce che alla fine non si fa niente. Non si fa niente. Questo è interessante, cioè quando le cose si stringono veramente, quando c'è da perdere qualcosa, il politico fa un passo indietro. Ah no, ma è meglio così, meglio, come succederà in questi 5 giorni, gettarsi addosso un po' di insulti, un po' di fango, un po' di rinfacciare, un po' di accuse e poi fare la solita elezione in cui si giudicano le facce e poco i programmi. Vi ringrazio per essere stati con noi, Massimo Bernardini, conduttore di TV Talk su Rai 3, e Alfonso Bonafede, capolista in Toscana alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Ritrovate tutto sul sito di Radio 24, radio24.it, potete ascoltare le nostre interviste e la nostra trasmissione, e ci seguite anche, se volete, su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 mattino la trasmissione, e ci ritroviamo domani alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.